l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e ben ritrovati all'altra Europa, come ogni settimana un'ora dedicata all'Europa delle persone, l'Europa delle storie, l'Europa delle possibilità e delle opportunità. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Vi ricordo le coordinate per trovarci anche nel mondo virtuale: euronetplus.eu, il sito dove potete trovare tante notizie in tante lingue diverse, approfondimenti, reportage, insomma l'Europa che si fa conoscere nelle sue mille facce. Euronet Plus R24 oppure @ Federico Taddia per leggere anche le nostre bacheche digitali Facebook e Twitter, dove mettiamo minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Lo sapete, Radio 24 segue giorno per giorno quella che è la politica, quella che è l'attualità europea. Noi cerchiamo di proporvi anche altri punti di vista. E oggi partiamo dalla strettissima quotidianità ed è il tema dei migranti. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place was brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you. E all'Europa dei muri, all'Europa delle divisioni, all'Europa degli accordi che non si trovano, cerchiamo di rispondere invece con l'Europa che fa qualcosa. Lo facciamo insieme a Giacomo D'Arrigo, il direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Ciao Giacomo, ben ritrovato. Ciao Federico, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. In diverse puntate in queste settimane abbiamo dato proprio voce ai giovani come una delle risorse, come una delle risposte concrete per quello che sta accadendo. Beh, voi con la vostra agenzia siete, credo, una delle situazioni più vere, una delle situazioni più attive, una delle situazioni che più ha fatto anche prima che scoppiasse l'emergenza. Sì, noi abbiamo voluto fare un punto un po' perché si sta sviluppando una discussione sul livello europeo e noi siamo agenzia che gestisce fondi e risorse europee, un po' perché anche noi vogliamo capire come possiamo dare un contributo a questa emergenza, e abbiamo fatto un punto, abbiamo verificato che circa 2 anni abbiamo investito, abbiamo contribuito a spendere circa 1,5 milioni di euro di risorse per progetti di inclusione e integrazione realizzati da associazioni italiane che lavorano e cooperano con associazioni e realtà del Nord Africa e del Medio Oriente. È stato un modo per cooperare e integrare giovani generazioni delle due sponde del Mediterraneo. Più di 1500 partecipanti in aree come Tunisia, Giordania, Libano, Palestina, Israele, Egitto e Marocco, progetti di cooperazione, di inclusione, ma soprattutto di contaminazione culturale, perché credo che sia quello il cuore di tutto. Sì, abbiamo provato a fare entrambe le cose, la contaminazione, come dicevi tu, l'inclusione, quindi cose che possono aiutare a far stare insieme, anche a dare questo messaggio. È ovvio che non è questo quello che fermo l'ondata di questa portata, però se c'è un meccanismo che aiuta le nuove generazioni a capire che ci sono delle occasioni di integrazione e di cooperazione, è una cosa importante. Sono 70 le associazioni italiane coinvolte in queste attività, sparse su tutto il territorio nazionale, la gran parte sul meridione, nel meridione d'Italia. Mi fa piacere ricordare un'altra cosa, rispetto alla vulgata che dice aiutiamoli a casa loro, noi lo abbiamo fatto, perché oltre a queste attività l'agenzia italiana si è fatta carico a proprie spese di istruire, formare e accreditare le strutture del Nord Africa e del Medio Oriente, che possono quindi adesso accedere o partecipare a fondi europei in modo che direttamente lì, in Africa, in Nord Africa e in Medio Oriente, possa aiutare i ragazzi di quei comuni, di questi territori. Il ruolo dell'agenzia è stato quello di appunto permettere di formare dipendenti, di formare le strutture, di accreditarli presso la Commissione Europea e quindi di aiutarli davvero a casa loro, non come slogan ma come fatto concreto. Certo, e ricordiamo anche il servizio volontario europeo, che è un'altra formula efficace per aiutare e aiutarci. Giacomo, saranno mesi impegnativi prossimi per l'agenzia, ma un paio di giorni fa tra l'altro c'è stato un nuovo stanziamento. Sì, abbiamo terminato proprio qualche giorno fa il round 2, che abbiamo questa volta spacchettato in due appuntamenti perché la mole di progetti è cresciuta e quindi abbiamo dovuto la necessità di dividere a metà i due appuntamenti comitati. Abbiamo terminato proprio 48 ore fa e quindi abbiamo liberato l'ultima parte residuale del round 2, che sono circa 400-450 mila euro, che si vanno ad aggiungere ai 7 milioni e mezzo già messi in campo nel solo 2015, quindi adesso siamo intorno a, abbiamo superato gli 8 milioni di euro che abbiamo messo in circuito solo quest'anno. Poi guardiamo adesso al mese di ottobre con gli appuntamenti che abbiamo in calendario. Certo. Che seguiremo come sempre. Agenziagiovani.it intanto, il sito di riferimento per tutte le informazioni. Un grazie al direttore generale dell'agenzia, Giacomo D'Arrigo. Ciao Giacomo. Grazie a te, grazie come sempre Radio 24. Buon sabato. Adesso le informazioni del traffico, prima in Europostit, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Premio europeo per il patrimonio culturale. Anche quest'anno torna lo European Prize for Cultural Heritage, Europa Nostra Awards, il premio europeo più prestigioso nel campo della conservazione dei beni culturali. Avete progetti di conservazione, digitalizzazione o di formazione riguardanti il patrimonio europeo? È giunto il momento di partecipare al bando che premia le eccellenze tra architetti, artigiani, esperti di beni culturali, volontari, scuole, comunità locali, proprietari del patrimonio e dei media. La premiazione, che si terrà nella primavera del 2016, selezionerà 7 vincitori che riceveranno un premio di 10.000 euro. Per inviare la vostra candidatura, visitate il sito europanostra.org entro il 1 ottobre. L'altra Europa. Hello, talk to me. Привет. Поговори со мной. Merhaba, konuş benimle. Hallo, sprich mit mir. Salut, parle-moi. Fortune, Kostilin Zeit. Ahoy, move some now. Ciao, parlami. Assalamu alaikum, kellimni. Hello, vanakkam. Vanga, ennoda pesunga. Ventiquattro lingue ufficiali nell'Unione Europea, circa 200 le lingue europee, 60 sono le lingue regionali e minoritarie, molte altre parlate da persone provenienti da altre parti del mondo. Queste sono le lingue celebrate oggi in Europa, perché è la giornata europea delle lingue, per la prima volta nel 2001, che era l'anno europeo delle lingue. Poi anno per anno il Consiglio d'Europa, in collaborazione con la Commissione Europea, ha scelto appunto di celebrare una giornata in cui ci sono tanti incontri, tanti ragionamenti, tanti confronti, mettendo appunto il discorso delle lingue al centro. Un programma ricchissimo anche in Italia, vi do il sito internet per tutte le informazioni, edl.ecml.at, sarà la giornata delle lingue, ma il sito è praticamente complicato, e tra le tante ne abbiamo scelta una che si terrà il 15 ottobre, quindi fra un paio di settimane, per darvi il tempo nel caso anche di partecipare. E tutto ciò verrà a Genova, è stato organizzato dal CERTEM, che è il centro di ricerca in terminologia multilingue, un convegno intitolato Multilinguismo e lingua franca nell'Unione Europea, con il patrocinio del Consiglio e della Commissione Europea. Diamo il benvenuto a Edoardo Pusillo, che è appunto membro del CERTEM. Ciao Edoardo, buon sabato. Sì, ciao a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, anche grazie. Partirei proprio dal titolo del vostro convegno: che cos'è la lingua franca? Con il termine lingua franca si intende una lingua usata come strumento di comunicazione, strumento di comunicazione internazionale tra persone che hanno una diversa lingua madre, quindi nasce da una necessità, è una lingua che nasce da una necessità, è una lingua plurifunzionale. Senza addentrarci nella storia, ma brevemente ti posso dire, le lingue franche sono nate in seguito a conquiste militari oppure in seguito al commercio internazionale. Oggi il convegno affronta determinati aspetti nuovi. La lingua franca, la necessità di una lingua franca nasce oggi dall'introduzione, dall'innovazione tecnologica, dalle tecnologie informatiche, da internet. Certo. La necessità in un mondo globale di dialogare. Ecco. Mm-hmm. Ecco, ma per esempio in Europa vuol dire che delle 24 lingue ufficiali ce n'è una più ufficiale delle altre, che di fatto poi è l'inglese? No, non c'è una più ufficiale delle altre, per una serie di circostanze storiche. Oggi l'inglese, un certo inglese, non quello di Shakespeare, non quello di Oxford, l'inglese è indubbiamente la lingua più utilizzata, la lingua che tanti capiscono. Sono tutte lingue che hanno la stessa dignità, le 24 lingue, ma è chiaro che il discorso è, se gli europei vogliono dialogare, e se vogliono dialogare devono anche capirsi, quindi è necessario che utilizzino una lingua veicolare, una lingua comprensibile a tutti, una lingua che gli permetta di affrontare una comunicazione globale. Ma è una lingua anche in grado però di trasferire cultura, di portare contaminazione, di mantenere viva la propria identità anche linguistica? Ecco, ma tutte le lingue, ecco, io volevo sottolineare che la lingua non va considerata solo come uno strumento di comunicazione tra persone, ma è soprattutto un mezzo attraverso il quale i popoli trasmettono la loro cultura. Lingua e cultura sono quindi poi due aspetti dell'identità nazionale, strettamente legati. Insomma, le lingue possiamo dire che raccontano quella cosa straordinaria che è l'esperienza umana. Mm-hmm. Posso citarti una frase Rousseau, sì, nel Settecento, un autore che a me è particolarmente caro. Nel saggio sull'origine delle lingue lui sostiene: la parola distingue l'uomo dagli animali, il linguaggio distingue una nazione dall'altra, non si sa da dove viene un uomo se non dopo che ha parlato. Certo. Ecco, cioè, la lingua è qualcosa che appartiene all'identità. Mm-hmm. All'orgoglio nazionale, insomma. Edoardo, so anche che hai fatto due conti. Quanto costa oggi tradurre in Europa? Ecco, il multilinguismo in Europa costa relativamente poco, ecco, uso il termine relativamente. Dagli ultimi bilanci, bilancio dell'Unione Europea di 145 miliardi di euro, il multilinguismo, le spese di traduzione, di interpreti, traduttori, è pari a un po' meno dell'1%, quindi è 1 miliardo di euro, quindi è una cifra abbastanza consistente. Però se noi questo miliardo di euro lo dividiamo per tutti i cittadini dell'Unione Europea, si scopre che poi il multilinguismo ad ognuno di noi costa l'equivalente di 2 tazzine e mezzo di caffè all'anno, ecco, a condizione che noi consideriamo nel conteggio anche i bambini. Certo. Quindi tutto sommato non costa tanto. Teniamo presente, questo è il costo economico, ma occorre anche tenere presente che dà lavoro il multilinguismo a tantissime persone. Il Dipartimento di Lingue dell'Università di Genova, che partecipa, crea, forma traduttori, interpreti, quindi tutte persone che insomma potrebbero in un futuro lavorare in un certo ambiente. Ecco. Assolutamente. Da moltissimo lavoro. Ecco. Mi ha fatto una carrellata dei tanti spunti che saranno affrontati in questo convegno. Ricordiamo il 15 ottobre, multilinguismo e lingua franca nell'Unione Europea, patrocinio del Consiglio d'Europa e della Commissione Europea, promosso dal CERTEM dell'Università di Genova. Grazie davvero Edoardo e buon lavoro. Grazie e arrivederci. Ciao, buon sabato. Europost-it. Slow Travel Fest. Attenzione, viaggiatori lenti e sostenibili, è arrivato il festival che tutti stavate aspettando. Dal 9 all'11 ottobre si terrà a Monteriggioni, in provincia di Siena, lo Slow Travel Fest, festival del viaggio lento a piedi e in bicicletta, che vedrà incontri, arte, musica ed escursioni sulla Via Francigena. Lo Slow Travel Fest nasce dall'esperienza del Festival della Viandanza e sarà caratterizzato da moltissimi eventi culturali e artistici accompagnati dai escursioni alla scoperta del territorio, con momenti di incontro per operatori nazionali e internazionali nel settore del viaggio lento. Slow Travel Fest è organizzato da Ciclica.cc e il Movimento Lento, tra i partner anche l'Associazione Europea delle Vie Francigene. Per informazioni visitate il sito slowtravelfest.it. Continuiamo a parlare di altre possibilità in Europa e lo facciamo toccando un tema che ci piace molto, che è quello della cultura, in particolare del patrimonio culturale. In questi tre giorni, dal 23 al 26 settembre, a Lecce si è tenuto Art Lab 15, che è un appuntamento molto importante, manifestazione voluta dalla Fondazione Fitzcarraldo. Si mette proprio la cultura al centro. Quest'anno però è la cultura condivisa, la cultura che chiama i cittadini a raccolta, vuole la loro partecipazione, proprio perché la cultura è un qualcosa di tutti. E ne parliamo di tutto ciò con Erminia Sciacchitano, Policy Officer della Commissione Europea DG Educazione e Cultura. Buongiorno Erminia, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno a voi. Buongiorno. Cosa si intende per partecipazione dei cittadini nella cultura? Allora, partecipazione vuol dire diverse cose. Allora, immaginiamo dalla semplice fruizione dei cittadini che vanno a visitare un museo, una risorsa culturale o un concerto, fino alle forme di coinvolgimento attivo che vogliono dire loro stessi, il cittadino che produce cultura, sì, in forma amatoriale, in forma semiprofessionale, sino a quelle forme che vedono invece colui che va a visitare o che affluisce della cultura come un soggetto non passivo ma un soggetto attivo, che è un portatore comunque della sua esperienza, interagisce e arricchisce. E da lì arriviamo a invece quelle forme di codecisione, di coinvolgimento nelle popolazioni, nelle decisioni, soprattutto per quanto riguarda le risorse culturali del proprio territorio, che sono forse le forme ancora molto più interessanti, più sperimentali, innovative, che diventano vere e proprie coprogettazioni del proprio futuro. E in queste forme sicuramente si riescono a massimizzare i benefici economici e sociali degli investimenti culturali. Uno degli esempi più noto, sì, è il processo di capitali europei della cultura. Mm-hmm. Quindi i cittadini comunque hanno voglia di essere coinvolti, cioè c'è una risposta positiva a questo richiamo? Generalmente dalla mia esperienza devo dire di sì. Io ho fatto numerose esperienze sul campo anche lavorando in Italia, sì. Ho un'esperienza in particolare interessante che facemmo insieme ai colleghi del Ministero Beni Culturali al Museo di Capodimonte, dove avevamo chiesto ai cittadini di collaborare alla definizione dei testi di una nuova ala degli appartamenti del Novecento. All'inizio ci eravamo chiesti, questi cittadini vogliono dedicare il loro tempo libero, no, a un tipo di attività di questo genere? E allora la risposta fu, devo dire, entusiasta e peraltro molto costruttiva, e ha cambiato definitivamente, creato un rapporto nuovo fra il museo e il suo pubblico. E l'Europa in tutto ciò che ruolo sta giocando? Cos'è il piano di lavoro per la cultura 2015-2018? Allora, il piano di lavoro per la cultura è una forma di coordinamento fra gli stati, che è una forma di coordinamento volontaria, perché come si sa in realtà le competenze sulla cultura a livello europeo sono abbastanza deboli, siamo in pieno regime cosiddetto di sussidiarietà, sì. Ma gli stati hanno deciso volontariamente di creare un piano di coordinamento e di mettere in piedi delle attività rispetto a delle priorità che vengono definite ogni 4 anni. Siamo alla terza edizione del piano di lavoro, è appena ripartita, e il patrimonio culturale in questa edizione è entrato fra le priorità del piano di lavoro, quindi anche qui ritorniamo a una migliore attenzione sul patrimonio culturale in Europa. Si fa abbastanza in Europa? Allora, si sta facendo tanto tanto di più in questi ultimi anni. Nell'anno scorso abbiamo visto un'escalation di documenti, di policy sul patrimonio culturale dopo anni, diciamo, di silenzio, che testimoniano un rinnovato interesse, soprattutto all'attenzione degli stati, perché come abbiamo detto è dovuta all'interesse degli stati questa maggiore ricerca, richiesta di una strategia comune, perché va detto che tutti gli stati stanno rilevando le stesse difficoltà che rileviamo noi in Italia. I tagli alla cultura, i tagli di budget e di personale interessano tutti, e questo sta creando un maggiore coordinamento a livello europeo. Ora, interessante vedere che, diciamo, il passaggio logico che si è verificato nei pochi anni, da un primo momento in cui la cultura veniva vista, la cultura e il patrimonio, quasi come un peso, qualche cosa che apparteneva al passato dalla quale bisognava scrollarsi, sì, e quindi che ha visto poi generare molti tagli, a un momento in cui tutti hanno lavorato, come dire, per lavorare sulla consapevolezza di questo valore, quindi tantissimi studi d'impatto, tantissime dimostrazioni del valore economico e sociale della cultura e del patrimonio, a oggi che si sta lavorando alla definizione di politiche attive, nel senso che non ci basta giudificare il nostro l'effetto delle politiche culturali, vogliamo generare dei benefici, vogliamo aggiungere valore attraverso le politiche sul patrimonio culturale, e queste sono sicuramente le esperienze più interessanti e più innovative che si stanno ora sperimentando, sulla quale ci sono i confronti a livello europeo. Di questo si è parlato e si sta parlando fino ad oggi a lecceartlab.fitzcarraldo.it per conoscere l'intero programma. Grazie davvero Sha Kitano, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Poi. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. L'altra Europa. See the whole solar system from here. I think we can hear it from here too. We are the planets of the solar system, different sizes for everyone. The music never ends, we are such good friends, and we all orbit the sun. Here comes the sun, rapping first on this track. From the beginning, I'm the center of the solar system. Planets be spinning around me. So hot, I'm roasting, you see. Now I pass a mic to the planet closest to me. Mercury, the smallest planet, small as Earth. A crescere l'attività scientifica dei ricercatori in Europa. È questo lo scopo della Notte dei Ricercatori, sostenuta dalla Commissione Europea. Si è tenuta ieri sera in oltre 300 città di 24 nazioni d'Europa, le università aperte, ma non solo, tanti centri di ricerca, tanti musei che hanno organizzato attività di divulgazione per tutti, e c'è la coda lunga di questa importante manifestazione anche oggi in tutta Europa. Ci sono qua e là in calendario attività per grandi e piccoli, in particolare a Milano continua Meet Me Tonight con un'altra giornata intera di sperimentazione, di incontro, di possibilità di toccare la scienza, e di fatto toccando la scienza anche toccare frammenti di Europa, come succede ai giardini Indro Montanelli di Via Palestro all'interno del European Space Expo, questa esposizione che abbiamo presentato proprio settimana scorsa insieme all'astronauta Nespoli. Beh, questa sera si parlerà di Europa e Terra, o meglio Copernicus, lo sguardo dell'Europa sulla Terra. Scopriamo di cosa si tratta, lo facciamo con Cecilia Donati dell'European Space Expo Team. Ciao Cecilia, buon sabato. Ciao, buon sabato. Allora, avrei dovuto presentarti, tutti si aspettano che tu sia un astrofisico, invece sei un economista, so. E invece sì, sono un economista, sono un astrofisica, ma c'è spazio per tutti nello spazio, quindi c'è spazio anche per un economista. Che insomma è quello che tra l'altro questa mostra racconta, sono proprio le ricadute della ricerca scientifica nella nostra quotidianità. In particolare Copernicus, che cos'è e cosa significa lo sguardo dell'Europa sulla Terra? Allora, Copernicus è un programma di osservazione della Terra che si basa su anni e anni di ricerca, e quindi anche Copernicus è un po' l'emblema di quanto sia importante la ricerca, e di quanto tutto si basa su una ricerca scientifica che poi piano piano, quando diventa matura abbastanza, si può trasformare in un programma operativo. E infatti nel 2014 Copernicus, che prima aveva un altro nome, GMS, è diventato operativo, e quindi è diventato a disposizione di tutti in modo più stabile, affidabile e operativo, per così dire. È un programma di osservazione della Terra, e quindi significa che abbiamo dei satelliti che girano, che orbitano intorno, ma abbastanza vicino alla Terra, perché tramite dei sensori, che possono essere o dei radar o dei sensori ottici, prendono delle immagini costantemente, passando più volte sullo stesso punto, in modo da creare una grossa base dati che poi può essere riutilizzata in tante applicazioni diverse. Quindi a seconda di chi sarà l'utilizzatore finale, utilizzerà o dati tra virgolette grezzi, che quindi come dire un negativo di una foto, sì, oppure utilizzerà la foto finita, perché è dato come se fosse una fotografia, una macchina fotografica che gira intorno alla nostra testa costantemente e continua a prendere foto. Ogni sensore prende delle foto diverse, ovviamente, e diventa poi materiale materiale di studio per i ricercatori di varie discipline, perché si va dal cambiamento climatico allo sviluppo sostenibile, l'agricoltura, per pensare proprio, appunto parlavamo di ricadute pratiche. Qual è la reazione del pubblico in questi primi giorni di apertura della mostra? La mostra trovo che sia molto suggestiva, comunque anche i visitatori la trovano molto suggestiva, perché si entra in questo pallone che da fuori è tutto bianco, ma dentro è tutto buio, sembra proprio di stare nello spazio, quindi ci sono le stelline disegnate, i modellini di satelliti appesi al soffitto, e quindi è un modo per avvicinarsi ancora di più al tema, proprio pensare di essere lì e di cercare un po' di entrare in questa ottica mentalità di prendere fotografie, piuttosto che non si parla solo di Copernicus, ma si parla anche dell'altro programma importante europeo, Galileo, che è un programma di navigazione satellitare. Ecco, la mia presentazione sarà su questa sera su il programma Copernicus, e quindi lo sguardo dell'Europa, della Terra sull'Europa, è proprio per dire da fuori guardiamo verso l'Europa, verso la Terra, non solo l'Europa. E non solo verso l'infinito, nel senso che si va anche nello spazio per guardare, per guardarci meglio, per conoscerci meglio. Questo mi sembra fantastico, al di là che insomma molto suggestivo. E C.Europa, scusami, da qui anche il nome Copernicus, appunto, come Copernicus ha passato la sua vita a studiare le stelle, a scoprire, a guardare che cosa c'era fuori da noi. Questo programma fa la stessa cosa, ma a specchio, al contrario, dalle stelle guarda noi e ci dice come stiamo cambiando, in che direzione stiamo cambiando, se stiamo cambiando o non stiamo cambiando, e che cosa dobbiamo fare per cercare di mantenere la Terra un po' più sicura per tutti, sia dal punto di vista di sicurezza degli individui, ma anche di sicurezza alimentare. Certo. Ma come tutte le applicazioni che hai detto prima, ecco. E c.europa.io, come sempre, per tutte le informazioni. Ti sei pentita di aver fatto economia e tenuta voglia di fare astrofisica? A volte sì, ma comunque sono comunque contenta di esserci arrivata nello spazio. Grazie, così. Grazie davvero, complimenti e in bocca al lupo per questa sera. Ciao Cecilia. Grazie. Europost-it. Young Regional Ambassadors. Hai tra i 22 e i 30 anni? Ti piacerebbe diventare giovane ambasciatore in Europa? La FEDRA, Federazione delle Realtà Regionali Europee, cerca giovani rappresentanti da tutte le 300 regioni d'Europa per avvicinare le realtà locali, pubbliche e private, alle istituzioni europee e incentivare lo sviluppo del territorio. L'obiettivo è trovare giovani ambasciatori che rappresentino ognuna delle regioni del continente per metterle in contatto con le iniziative, anche economiche, offerte dall'Unione Europea. I candidati selezionati entreranno a far parte del network di FEDRA e potranno relazionarsi con gli attori locali a suo nome, ricevendo un tutoraggio gratuito sulla dimensione regionale in Europa da parte degli esperti della federazione. Sono previsti anche eventi e incontri a Bruxelles. Per candidarti, cerca la pagina dedicata agli Young Regional Ambassador sul sito fedra.eu. Hi, I'm Mike Goldsworthy, Programme Director of Scientists for EU. I'm sorry I can't be in Bournemouth today, but what I'd like to do in this 10-minute video is to give the talk that I would have given had I been able to be there. And I'll give the talk in three parts. So firstly, introducing who we are at Scientists for EU. Secondly, I'll talk about the benefits that UK science. Continuiamo a parlare di scienza ed Europa e lo facciamo raccontandovi di questo movimento neonato in Gran Bretagna, un buon motivo per sostenere l'Unione Europea è la scienza. Questo è quello che dicono gli scienziati, e ne parliamo con Andrea Taroni, che è direttore del giornale scientifico Nature Physics e sostenitore appunto di scienziati per l'Unione Europea. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Beh, è bella questa cosa, è un movimento appunto appena nato proprio per ricordare quanto l'Europa faccia per la scienza. In Gran Bretagna ci sono state le elezioni a inizio di maggio. Sì. Di fatto è stata una vittoria abbastanza chiara del partito conservatore, e questo quindi ha messo chiaramente sull'orizzonte un eventuale referendum sulla permanenza dell'Inghilterra o della Gran Bretagna all'interno dell'Unione, certo, Europea. E da qui l'allarme degli scienziati. Esatto, quasi immediatamente dopo il risultato dell'elezione si è formato un gruppo Scientists for EU, un comitato abbastanza vario con sostenitori proprio da tutto lo spettro politico, e anche chiaramente in cui partecipano anche scienziati attivi, giovani o anche più esperti, più conosciuti, con l'intenzione iniziale di semplicemente rendere presente al pubblico britannico che la ricerca è uno degli esempi forse migliori del bene che può fare l'Unione Europea, interamente gli interessi della Gran Bretagna. Certo. Cioè, quindi gli interessi dell'Unione Europea, gli interessi della Gran Bretagna a livello della ricerca scientifica sono perfettamente allineati, e questa è una cosa che nel dibattito molto viscerale che esiste in questo paese riguardo l'Unione Europea, questa è una cosa che non è molto colta. Mm-hmm. Ma gli scienziati sono ascoltati? Cioè, fanno opinione in Inghilterra? Sì e no. Diciamo che esiste un problema universalmente riconosciuto dagli scienziati, che è molto difficile farsi ascoltare dal pubblico. In parole povere, la scienza raramente viene menzionata a livello di notizie giornaliere su telegiornale, e di sicuro la politica della scienza viene menzionata molto poco. D'altro canto è anche vero che l'Inghilterra in realtà ha un'industria abbastanza piccola, ma comunque molto, molto florida, direi, che si occupa della comunicazione della scienza, e adesso maggiormente della comunicazione della politica della scienza. Quindi questo è un fenomeno che forse esiste da 5-10 anni, direi, dove ci sono ora qualsiasi giornale che si rispetti ha un editore scientifico, ha una redazione che si occupa proprio della scienza. Mm-hmm. E questi problemi, queste questioni vengono discusse spesso forse nella sezione un po' più di nicchia dei giornali e del discorso pubblico di queste cose, però è decisamente presente. Quindi forse c'è ancora una discontinuità, tra il pubblico e gli scienziati, però ci sono veramente molti giornalisti che stanno lavorando per colmare questa situazione. Tra l'altro è un po' rincurante, perché si parla sempre dell'Inghilterra come esempio di divulgazione scientifica ben fatta, invece insomma un po' di gap c'è anche lì. Andrea, torneremo sicuramente sull'argomento nelle prossime settimane. Grazie intanto per averci dato questo assaggio, ci ritroviamo qui all'Altra Europa. Ciao e buon lavoro. Ciao, buongiorno. Adesso ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con l'Altra Europa. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione, e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta L'Altra Europa. And I called through the air and night, a calm sea voice with a lie. I could only smile, I've been alone. porto, il porto che è centro dell'economia, il porto che è identità di una città, il porto che è linguaggio, il porto con i suoi odori, i suoi sapori, il porto che ti racconta chi sei. Questo un po' è il filo conduttore di un progetto, Porta Identité, i porti, un progetto realizzato dagli enti locali e territoriali della regione Toscana, Liguria, Sardegna e della Corsica nell'ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013, un convegno alla Biblioteca Berio a Genova ha un po' così fatto il punto di questo percorso. Ne parliamo con Elena Fiorini, assessore alla legalità e diritti del Comune di Genova. Buongiorno Fiorini, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a voi. Ma quello che era una volta il porto per una città come Genova lo è ancora oggi? Il porto continua a rimanere centrale nell'identità genovese, il porto è Genova, naturalmente cambiano i tempi, cambia le modalità di svolgimento del lavoro, cambia il mondo e questa identità continuano a cambiare, una in relazione all'altra. Certo, e il porto racconta una città, o racconta le città di porto hanno tanti punti comuni, e cosa racconta questo progetto che state facendo? Questo progetto è un progetto che per noi è molto importante e credo che racconti i tratti comuni delle città di porto, quindi mettersi in relazione con il resto del mondo, modalità di lavoro di un certo tipo, un retroporto strettamente connesso all'identità portuale e al tempo stesso anche differenze che naturalmente connotano poi le diverse città. E nel concreto questo progetto cosa ha portato a Genova? Genova ha cercato attraverso questo progetto di recuperare un sempre più stretto rapporto tra la zona portuale che adesso per una parte è diventata una zona a vocazione turistica e culturale con la parte retrostante, quindi il bellissimo centro storico di Genova che è sorto appunto a ridosso dell'area portuale, attraversandolo con dei percorsi turistici che partono proprio dall'area portuale, quindi in qualche modo partendo da quello che è il cuore della città per arrivare a scoprirne anche le parti più nascoste. Tanti conoscono i bellissimi vicoli di Genova stretti con questi palazzi alti che sono una sorta di dedalo in cui ci si può perdere. Ecco, noi abbiamo elaborato 4 percorsi in cui invitiamo i genovesi e i turisti a perdersi, ma non troppo, guidandoli dal porto a conoscere parti diverse della città. E poi ci siamo concentrati su un quartiere, su una zona del centro storico particolare che è la Maddalena, che è una zona che negli ultimi anni ha avuto diciamo una fase di degrado, di chiusura di esercizi commerciali, in qualche modo cercando di valorizzarne quelle che ne sono le bellezze e restaurando dei locali all'interno del quartiere. Prima parlava di questi dedali, di queste vie appunto nella zona del porto, ma è una zona ok, percorsi per i turisti, ma i genovesi la conoscono questa zona o anche per loro è una riscoperta? Per molti genovesi è un amore mai finito, per altri invece si tratta di scoprirli o riscoprirli e appunto questo è quello che questi percorsi desiderano fare. Volevo chiedere col mugugno genovese, è vero che ha origine portuale? Oddio, non si capisce se i portuali fossero così perché erano genovesi o i portuali abbiano influenzato talmente tanto la mentalità genovese, però addirittura esistono due tipi di contratti per i portuali genovesi, con mugugno e senza mugugno. Senza mugugno venivi pagato di più, ma se mugugnavi è accettabile di essere pagato di meno, questa era la cosa preferita. A quanto pare i portuali in massima parte chiedevano di essere pagati un po' di meno, ma avere la libertà di lamentarsi, perché chi non è genovese può anche non sapere cos'è il mugugno. Il mugugno è proprio la classica lamentela genovese. Insomma, anche questa è la cultura di una città. Grazie davvero, assessore, buon lavoro. Grazie a voi, buon proseguimento. Elena Fiorini, assessore alla legalità e diritti del Comune di Genova, con cui chiudiamo questa puntata. Vi ricordo che tutto ciò lo potete riascoltare sul nostro sito radio24.it, da lì riascoltare anche tutti i post-it e trovare i link relativi agli argomenti che abbiamo affrontato. Un grazie a Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. Paolo Corleoni oggi alla parte tecnica. L'appuntamento, come sempre, è a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.